I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Si apre una settimana decisiva sul pacchetto pensioni, sia per l'attuazione della fase 1, vale a dire le misure arrivate con la manovra 2017, ad esempio l'APE, l'anticipo pensionistico, sia per la fase 2, quella definita da governo e sindacati con l'intesa siglata lo scorso autunno e che guarda tra l'altro agli interventi per dare maggiori garanzie previdenziali ai giovani. Proprio oggi i tecnici di Palazzo Chigi e del Lavoro incontreranno i sindacati per un confronto sulla fase 1, si farà il punto sui decreti con le regole operative per l'APE nelle sue tre declinazioni, volontaria, aziendale e sociale. L'APE, ricordiamolo, è il meccanismo che consentirà di lasciare il lavoro fino a 3 anni e 7 mesi prima del termine di legge, grazie a un prestito che dovrà essere restituito negli anni successivi. Questo anticipo però sarà completamente gratuito nella sua versione sociale, ovvero per chi ha redditi molto bassi. L'incontro di oggi serve a fare luce su molti aspetti ancora oscuri, a partire da quello del costo del rimborso dell'APE volontaria. Poi dovranno essere definite le convenzioni con le banche, le assicurazioni, per fissare le condizioni finanziarie per questo anticipo. A questo punto però sorge qualche dubbio sul fatto che possa essere rispettato il calendario di questa fase 1, visto che le domande per l'APE potranno essere presentate già dal 1° maggio. Il rischio, insomma, è che per quella data non tutto sia pronto per far partire l'anticipo pensionistico. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e RDS.it.